Unità 1. Per capire. Traccia 2. Ciao a tutti! Ciao papà, finalmente sei arrivato. Come mai così tardi? C'era tanto traffico stasera. E Marion? Sono qui. Buonasera, signor Machesi. Buonasera, Marion. Allora, com'è andato il primo giorno di corso di italiano? Bene, bene, grazie. Buongiorno, scusi, devo andare al Duomo, ma non so a quale fermata devo scendere. Sì, guardi, deve scendere alla prossima fermata. Ah, grazie. Prego. Buona giornata. Arrivederci.